leggerezza è un'accusa che ti fai, o è un disegno fatto a matita. Colori tenui e vento che solleva le parole, le tue braccia in una danza. Senza svegliarsi nella paura e risvegliarsi al suono dei propri passi. Lungo l'aria libera, leggera. La leggerezza è quel che ti manca, o non ti giri mai a cercarla. Voce conosciuta e amata solleva, le parole ti abbraccia con presenza. Giocare tutto un giorno senza svegliarsi dalla magia e ritrovarsi al color dei propri occhi. Aperti socchiusi, capricci, vicini. La leggerezza ti passa vicino, la leggerezza non ti chiama mai. Leggerezza sono due occhi chiari, leggerezza è rimanere in silenzio. Io mi sorprendo a credere che domani, forse anche per me, crescerà un sole alto in cielo, e che domani, forse anche per te. Leggerezza è un respiro che cerchi, o è un passo che sai danzare. Suono di vento sull'erba solleva, i sogni con le braccia li stringi. Senza svegliarsi nel deserto e contemplare il silenzio della propria voce.